insieme, Falco. Tanto tu, anche se stai bene, sei sempre finocchio. Paolo, mettiti alla pompa. Dimmi, va. E pare che sei tutto posto, ma poi grillo. Gallina. L'altro. Pensa che il tatti non le metteva. Tu perché non vai con Alessia a grattare, stronzo? Che sì. Ma hai consumato scarpe. E vabbè, dai. Un silenzio, silenzio, boh. Andrea, ci sei. Ma perché non fai silenzio? Come esci? E tua madre è una grandissima puttanona.